un altro giro, fai un altro giro, fai un altro giro, perché qua che si può, qua che si può, qua che si può, qua, qua che si può. Fai un altro giro, fai un altro giro, fai un altro giro, perché qua che si può, qua, qua che si può, qua, qua che si può, qua, qua che si può, qua che si può, qua, qua che si può. Another bottle, another shot, let them know who this shit. Cause them niggas that be hating, cause that saying who this shit. Hit them niggas, man, be hating, hit them niggas, man, they be playing. Hit them niggas, they be saying, I be damn niggas, man, I ain't playing. I be doing it, they be dropping, they be dropping, hey, they be knowing. Cause them niggas, man, they be knowing, cause them niggas, man, they be balling. What you saying, nigga? That be flopping that shit. Cause them niggas think them hot, cause them niggas, they bopping that shit. No, nah, cause them niggas, that be tripping. Cause them niggas, man, I got them niggas faking in the kitchen. No, for real? Man, that shit is flipping. Man, I even got them niggas up if that shit think it's tripping. Man, we high, man, we super high, man, we super duper. Cause them niggas there, we know we in this shit, we not a looper. If not your niggas, we gon' sample your big extra trooper. Everybody want no color soldier, we ain't got to beeper. Fire un altro giro, fire un altro giro, fire un altro giro, perché qua che si può, qua che si può, qua che si può, qua, qua che si può. Fai un altro giro, fai un altro giro, fai un altro giro, perché qua che si può, qua, qua che si può, qua, qua che si può, qua, qua che si può, qua che si può, qua, qua che si può. Fai un altro giro fregandoti dello sbirro. Fuori da sta messa vai via, non respiro. Aria intensa, immerso in un altro chilo. Non mi stressa la media, hai perso il filo del mio discorso, celebra il tuo concorso. Ora sei tutto bene, fosse in un altro posto. Studia per st'estate, cambiare corso. Dalla storia al futuro, il momento è vostro. Fai un altro giro, fai un altro giro, fai un altro giro, perché qua che si può, qua che si può, qua che si può, qua, qua che si può. Fai un altro giro, fai un altro giro, fai un altro giro, perché qua che si può, qua, qua che si può, qua, qua che si può, qua, qua che si può, qua che si può, qua, qua che si può, qua che si può, perché l'ha detto la mia zia. Sono super tranqua e fumo la Maria. Hai capito cosa ho detto? Non ti rubo una lira. Hai problemi con notizia? Non c'entra la mia via. Fai un altro giro, fai un altro giro, fai un altro giro, perché qua che si può, qua che si può, qua che si può, qua, qua che si può. Fai un altro giro, fai un altro giro, fai un altro giro, perché qua che si può, qua che si può, qua che si può, qua, qua che si può, qua che si può, qua, qua che si può.